Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, puntata particolare, perché immagino che sicuramente non tutti, ma molti di quelli che sono in ascolto poi guarderanno chi potrà la nazionale, altri l'ascolteranno. Focus Economia oggi si interrompe alle 18, poi resteremo in studio con altri ospiti, Carlo Genta, che è il nostro conduttore di riferimento per quello che riguarda lo sport con tutti i convocati, e anche Giuseppe Cruciani. Cercheremo di commentare, soprattutto loro devo dire, la partita cruciale della nostra nazionale. I temi che però riguardano questa giornata economico-finanziaria sono in parte il proseguo dei temi di ieri, ossia, come ahimè alcuni ascoltatori temevano ieri e anche alcuni nostri ospiti, in realtà l'apertura tedesca è rimasta un'apertura, diciamo, per un giorno. Perché lo dico? Perché oggi subito si sono sollevate le obiezioni alle dichiarazioni rese ieri dal portavoce di Angela Merkel, Steifer, e cioè che il patto di flessibilità, il patto di stabilità, scusatemi il refuso e il lapsus freudiano, il patto di stabilità, che potrebbe diventare un patto di flessibilità a questo punto, contiene al suo interno già degli elementi flessibili per adattarsi alla congiuntura e quindi avere più tempo per il rientro. L'ipotesi che però vengano premiati i paesi che fanno le riforme, cioè che il maggior tempo per ridurre il deficit venga concesso ai paesi che si sono impegnati nelle riforme. Ebbene, oggi non solo Schäuble, il falco tedesco, ministro della finanza, ha detto al Bundestag: non bisogna ripetere l'errore di non rispettare le regole come è stato fatto in passato, andremo avanti in modo coerente, occorre rispettare il patto di stabilità e crescita per recuperare la fiducia dell'euro e rafforzare gli investimenti. Siamo solidali, ma gli aiuti possono arrivare sempre solo dietro una condizionalità. E devo dire, appunto, già getta acqua sul fuoco. Chi ha gettato ghiaccio sul fuoco è stato il numero uno della Bundesbank, Hans Widmann, che in un'intervista alla Süddeutsche Zeitung ha detto: attenzione, sarebbe un errore ammorbidire il patto di stabilità, a Parigi e a Roma provocherebbe scosse se venisse ammorbidito per Francia e Italia, provocherebbe scosse nell'area euro. Le regole di bilancio anzi andrebbero rafforzate, dovrebbero contenere una maggior forza vincolante. Allora, ognuno giustamente esprime le opinioni che vuole. Mi chiedo in che continente abiti il presidente della Bundesbank, perché dire che provocherebbe scosse nell'area euro, ammorbidire, rendere più intelligente e meno stupido il patto di stabilità e quindi l'obbligo di ridurre il deficit, ma considerando la congiuntura economica, considerando anche gli sforzi e i costi delle riforme fatte, considerando anche il deficit buono, quello fatto per investimenti, dal deficit cattivo, quello fatto per spese correnti, null'altro. Beh, dico, immaginare che se si avesse un patto di stabilità più intelligente arriverebbero scosse all'area euro, a uno viene da chiedersi: ma Widmann era in Europa dopo le ultime elezioni europee? Perché la scossa all'area euro è già arrivata con il voto francese, con il voto inglese. In Italia è andata diversamente, ma voglio dire, non è che non esista il partito, non esistono i partiti anti-euro che, se sommati, sono al 30% del voto. Cioè, di quale scossa sta parlando Widmann? Non si è reso conto che il livello di popolarità dell'area euro è ai minimi storici e che se non si cambia il patto, voglio dire, la scossa già arrivata si trasforma in un terremoto? Resto ogni tanto basito. Comunque, le altre notizie in breve. C'è un ascoltatore che mi dice: si pronuncia Weidmann, va bene, si pronuncia Weidmann, ma non cambia il giudizio sul ragionamento, veramente, da, se mi permette, Weidmann, da Forrest Gump, da chi non abita in questo mondo e pensa che le scosse all'area euro potrebbero... Le scosse all'area euro sono arrivate perché con questo patto che avvantaggia solo la Germania in questo momento e non tiene conto degli sforzi che fanno alcuni paesi, obiettivamente il livello di affezione nei confronti dell'Europa, dell'euro, è ai minimi storici, per cui ripeto, viviamo in due mondi diversi evidentemente, dai. Infatti, giustamente scrive in maniera ironica, penso, un ascoltatore: Dio benedica i falchi tedeschi che così facendo incrementano gli euroscettici. Vabbè, su questo non ci sono dubbi. La borsa oggi meno 0,30% Milano, più 0,20% Francoforte, più 0,17% Parigi, invariata Londra. Che cosa succede? Beh, da noi pesa soprattutto il mondo bancario, con un caso clamoroso che il Monte dei Paschi di nuovo sull'ottovolante, perde quasi il 12% nell'ultima settimana di aumento di capitale, mentre il Banco Popolare perde il 2%, la Pop Milano l'1,80%, Intesa San Paolo il 2%, Unicredit il 2,20%, bene Ferragamo più 2% come Fiat, Telecom più 1,60%, Tenaris più 1,40% come Tozza, Atlantia più 1,30%. Volete sapere, adesso però parliamo di economia, sì, chi vi parla sarà presente nella diretta di Radio 24 per la partita, assieme a Carlo Genta che la condurrà, Giuseppe Cruciani e altri conduttori di questa radio. Ma andiamo avanti con i temi, al di là della posizione tedesca che poi commenteremo, perché c'è anche il voto ottenuto da Renzi, per cui si sommano le due cose. Per quello che riguarda i temi di carattere internazionale, invariato il prezzo del petrolio, per ora la situazione irachena non ha, pur essendo una situazione drammatica dal punto di vista umanitario, non ha effetti sul prezzo del greggio. Questo nel giorno in cui, come i nostri GR24 hanno raccontato, secondo alcune agenzie di stampa, droni americani avrebbero bombardato alcuni obiettivi dei ribelli jihadisti al confine tra Iraq e Siria, anche se poi questo è stato smentito dal Pentagono. Nel frattempo dal Giappone arriva la terza fase della cosiddetta Abe Economics, dal nome del premier Abe. Lui la chiama la terza freccia, dopo la prima scoccata con la politica monetaria ultra espansiva, cioè tassi a zero e concessioni di credito alle imprese, agevolazioni fiscali per le imprese. La terza freccia è dedicata alle riforme strutturali per rilanciare l'economia e la competitività nel mirino di settori agricolo, energetico, medicale e del lavoro. Comunque è previsto anche un taglio delle tasse alle imprese, pensate un po', dal 35,6% al 30%, e troveremo le risorse per l'operazione, anche perché il Giappone non ha il patto di stabilità, non ha un vincolo sul deficit, può aumentare un po' il deficit se è convinto che ridurre di 6 punti percentuali le tasse sulle imprese faccia ripartire di più l'economia. È una cosa di cui ci ricolleghiamo al ragionamento tedesco, che invece non vuol sentire da questo punto di vista. In America volano le vendite di case nuove nel mese di maggio, più 18,6%, è il maggior rialzo, a dimostrazione che il mercato immobiliare in America non solo si è ripreso, alcuni ritengono più in Gran Bretagna che in America, ma insomma che inizia a essere su livelli di guardia. Comunque il maggior rialzo nella vendita di case nuove negli Stati Uniti dal 1992, sale anche la fiducia dei consumatori americani oltre le attese. Ancora, dicevamo dell'Europa, delle posizioni di Weidmann, che sarebbe fatale ammorbidire il patto, per ora è fatale lasciarlo così. Però su questo è intervenuto anche il premier Matteo Renzi, perché parlando al Senato sul semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea ha detto: l'Italia andrà a Bruxelles puntando su un pacchetto di riforme puntuale, specifico, legato a una visione d'insieme, da presentare in sede europea come pacchetto che sia in grado di abbracciare la legislatura. In cambio chiediamo un riconoscimento di una flessibilità che, è vero, è già presente dentro il patto di stabilità. E quindi la posizione italiana, se posso tradurre, sarà di dire: i paesi che fanno determinate riforme possono ottenere, riforme del mercato del lavoro, riforme per essere più competitivi, possono ottenere maggiore flessibilità nei parametri del patto. Noi pensiamo che l'Europa non possa diventare un elenco di raccomandazioni e di problemi, e per questo insistiamo con grande forza nel fatto che l'Italia presenti un pacchetto di riforme, che sia puntuale, specifico, legato a un disegno di insieme, e lo presenti nella sede europea come un pacchetto di riforme che sia in grado di abbracciare sostanzialmente l'arco di questa legislatura, chiedendo non in cambio, ma come naturale conseguenza, che vi sia il riconoscimento di quella flessibilità che sta dentro le regole costitutive dell'Unione Europea. E poi oggi dati sempre relativi all'Italia del commercio estero fuori dall'Europa. Come già avevamo intuito una settimana fa, i dati erano buoni soprattutto fuori dall'Europa. A maggio più 6% quasi, più 5,7% rispetto ad aprile. È il primo rialzo mensile dell'export fuori dall'Europa da inizio anno. Rispetto a un anno fa però siamo ancora a un meno 1,9%. Bene gli Stati Uniti, più 7,7%, paesi OPEC invece male, meno 8,6%, Russia meno 14%, Cina più 9%, Giappone meno 17%. Oggi è intervenuto in audizione alla Commissione Trasporti della Camera Antonello Pericone, che è il presidente e amministratore delegato di NTV Italia, cioè i treni Italo. Ha detto che il gruppo è soddisfatto per il numero di passeggeri trasportati, 6.200.000 nel 2013, un traguardo molto importante, ossia un'accelerazione più che buona da parte dei passeggeri trasportati. L'azienda soffre, ma il debito non è preoccupante, sarà affrontato con gli istituti bancari. Ci interessa, ha continuato Pericone, anche il mercato regionale del trasporto ferroviario regionale, ma in un quadro di regole chiare e trasparenti. La priorità per noi oggi però è mettere in sicurezza l'azienda attraverso il consolidamento del core business, dell'attività principale, che è appunto l'alta velocità. E poi aggiunto, quando NTV è nata ha avuto molti ostacoli di natura tecnica che hanno prodotto dei tempi molto lunghi e anche costi aggiuntivi per l'ottenimento delle autorizzazioni. Sono note tutte le difficoltà che abbiamo incontrato. Oggi possiamo ritenerci moderatamente soddisfatti del fatto che esiste un dialogo con l'incumbent, cioè con la concorrente Ferrovie dello Stato. Infine una notizia a cavallo tra economia e giudiziaria: il procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo ha chiesto il processo per l'amministratore delegato di F2I Vito Camberale per altre due persone con l'ipotesi di concorso in turbativa d'asta in relazione alla vendita da parte del Comune di Milano nel dicembre 2011 del quasi 30%, del 29,75% della SEA a F2I. Allora, visto che parliamo di calcio fra poco meno di 40 minuti, sì, 40 minuti esatti, c'è un tema calcistico che riguarda direttamente la borsa, già vi accennavamo in questi giorni. Si chiama il tema dei diritti TV, nulla a che fare con i mondiali, tema su cui per esempio si muove in un senso o nell'altro un titolo come Mediaset. E dopo l'ennesimo rinvio di ieri, è attesa per domani la decisione definitiva della Lega Calcio in merito all'assegnazione dei diritti TV della Serie A per il triennio 2015-2018. Il tema ci sta tutto, da un lato appunto perché è facile, c'è la nazionale che gioca, ma anche perché qui stiamo parlando di oltre 1 miliardo di euro l'anno come offerta. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Ecco, vedo un flash di agenzia adesso proprio sul tema. Dunque, Sky ha affermato in una nota che ad oggi, prima dell'assegnazione da parte della Lega Calcio, non ci sono né le ragioni né le condizioni per un accordo tra gli operatori. Adesso arriviamo a questa ipotesi. E per quello che riguarda cosa sta succedendo, diamo due cifre. Per la stagione 2013-2014 la Lega Calcio ha incassato 838 milioni di euro. Le nuove offerte lascerebbero presagire incassi per oltre 1 miliardo di euro. I club che incasserebbero di più sarebbero nell'ordine: Juventus 123 milioni, Inter 104, Milan 102 milioni. Però c'è una guerra in corso tra i due contendenti, Sky Italia e Mediaset. E cerchiamo di capire a che punto sia la guerra. Vedo un'altra agenzia appena arrivata sempre da Sky che dice: se una volta assegnati i diritti per la Lega Calcio dovesse verificarsi in concreto l'esistenza di un abuso di posizione dominante legato al mantenimento da parte di Sky dell'esclusiva sulle partite delle otto squadre, Sky adotterà la soluzione che dovesse rendersi necessaria, inclusa la distribuzione tramite operatori terzi dei diritti acquisiti. Allora, chiedo al collega Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore di fare il punto sulla vicenda. Buonasera Marco. Ciao, buonasera Sebastiano. Anche alla luce di queste ultime dichiarazioni, allora, ci sono due contendenti per un'offerta che vale circa 1 miliardo di euro l'anno, Sky e Mediaset. Che cosa li sta dividendo? Perché Mediaset ha presentato un'offerta per le partite delle 12 squadre meno importanti della A più alta di quella di Sky, però vuole anche acquisire le partite delle 8 squadre principali o su digitale o su... Facci capire qual è l'oggetto del contendere, perché di solito chi offre di più dovrebbe prendersi i diritti. Esattamente. In pratica è successo questo, che quando sono state presentate le offerte erano state pensate dalla Lega, da Infront, che è l'advisor della Lega, per dare un pacchetto di 8 partite, quelle principali, quelle dentro Juventus, Inter e Milan, tanto per intenderci, all'operatore satellitare, cioè Sky, un pacchetto da 8 partite all'operatore digitale terrestre e un ultimo pacchetto di 12 partite con le squadre meno importanti, ma dentro per esempio questo pacchetto potrebbe esserci anche la Roma, al miglior offerente. Ecco, il problema è che entrambi gli operatori hanno presentato offerte per tutti i pacchetti e quindi per tutte le piattaforme. A quanto risulta all'apertura delle buste, le offerte maggiori sono state presentate da Sky, sia per il digitale terrestre che per il satellite, per la trasmissione appunto sulla piattaforma satellitare. Cioè sia per le otto principali squadre, sia per le 12 minori, no? Per le 8 squadre migliori su entrambe le piattaforme, sia quella satellitare, che è quella su cui Sky trasmette, che per quella relativa al digitale terrestre. Questo perché c'era stato qualche mese prima un'offerta molto importante di Mediaset che aveva preso i diritti della Champions League strappandoli proprio a Sky, quindi Sky in qualche modo ha reagito prendendosi o perlomeno facendo le offerte più alte per entrambi questi pacchetti. Il problema qual è? Che secondo la Lega, secondo Infront e secondo Mediaset ovviamente, non si potrebbe assegnare le 8 partite migliori a un solo operatore per entrambe le piattaforme e quindi Sky dovrebbe prendersi il satellite e Mediaset il digitale terrestre nonostante l'offerta più bassa. Questo più o meno quello che dice la Lega, che dice Infront. Per Sky questo non sarebbe invece un problema, perché non ci sarebbe un divieto per lo stesso operatore di avere le due piattaforme, e per questo in questa nota che avevi letto Sky dice: se è un problema lo deciderà l'antitrust successivamente, non esiste alcun divieto preliminare, quindi siccome abbiamo fatto le offerte più alte dovete darci questi diritti. Peraltro Mediaset aveva presentato l'offerta più alta per il pacchetto D, cioè quello relativo alle 12 squadre minori, un'offerta che però era condizionata al fatto di avere l'acquisizione del suo pacchetto, quello per il digitale terrestre. Non avvenendo questa assegnazione perderebbe anche l'altro e quindi tutto il calcio sarebbe in qualche modo in mano a Sky, e per Mediaset questo sarebbe assurdo, insomma sarebbe un abuso di posizione dominante. Per questo ieri ci sono state diffide e contro diffide con gli avvocati che stanno lavorando in queste ore per stabilire chi ha ragione. Si finirà probabilmente in tribunale, perché la Lega entro domani deve prendere una decisione. Certo. Sullo sfondo abbiamo chi? Le 20 squadre della Serie A, che se ci fosse insomma questa assegnazione avrebbero un inatteso aumento di quasi il 30%, cioè dal miliardo che incassano finora si arriverebbe a 1,2-1,3 miliardi, perché poi vanno vendute anche i diritti all'estero, e quindi vorrebbero addirittura una sorta di assegnazione incrociata con Sky che prende il digitale terrestre perché ha offerto 420 milioni, con Mediaset che prende il satellitare perché ha offerto 300 milioni, poi dovrebbero scambiarselo, insomma un guazzabuglio. E il problema finale qual è? Ci sono tanti abbonati, 7 milioni, i quali potrebbero ritrovarsi non il prossimo campionato, perché riguarda dal 2015 in poi, però ad avere due decoder o comunque ad avere prezzi più alti per lo stesso prodotto, perché l'incremento chiaramente del costo potrebbe poi riverberarsi sui clienti. Vediamo, insomma è una classica situazione italiana purtroppo che potrebbe, ripeto, beneficiare inaspettatamente i club. Ma infatti tu ricordavi che già per esempio l'amministratore legato Andrea Zappia di Sky ha minacciato di ricorrere alle vie legali perché la possibilità di vincolare un'offerta per un pacchetto di partite all'acquisizione di un altro è fuori dalle regole del bando. per cui è questa la causa legale in caso di duplice assegnazione a Mediaset. A sua volta Mediaset potrebbe fare questa cosa. La dichiarazione di adesso la dice lunga, perché Sky è come se mettesse le mani avanti: se vinceremo noi, se ho ben capito, sia le partite 12 più le 8 che già più le 8 in esclusiva daremo a terzi, perché vi sarebbe un abuso di posizione dominante, se lo stabilirà l'antitrust, perché certo. In pratica la legge Melandri dice che nessun operatore può avere l'esclusiva su tutte le partite in diretta su tutte le piattaforme. Ora, per Sky questo, diciamo, non avverrebbe, in quanto l'offerta per il pacchetto D fatta da Sky, per esempio, è sotto la soglia della base d'asta minima, e quindi, diciamo, in ogni caso quello permetterebbe di non incorrere nel divieto di abuso di posizione dominante. E tra l'altro Sky non ha fatto nessuna offerta per il pacchetto delle trasmissioni online, che è un pacchetto innovativo da 100 milioni che aveva introdotto in questo bando la Lega, e quindi, diciamo, non ci sarebbe questa, diciamo, questa possibilità di unplane completa da parte di Sky, non si creerebbe questo problema. In ogni caso, dice Sky, lo dovrà dire l'antitrust, e soltanto dopo che la Lega avrà assegnato eventualmente i diritti. Non si può a priori negare a Sky, che ha fatto le offerte maggiori, la possibilità di acquisire tutti questi diritti. Mediaset ovviamente è di idea assolutamente opposta, chiaro. E io prevedo, insomma, che ci sarà tanto lavoro per gli avvocati nelle prossime settimane, perché chiaramente, insomma, la situazione è particolarmente ingarbugliata. Molti di voi mi chiedono che cosa vogliono i club, cioè le squadre di calcio. Beh, sono, da quello che ho capito io, favorevoli al dare il pacchetto satellitare a Mediaset e digitale a Sky, cioè a spacchettare, ho capito bene? Sì, a dare questa sorta di... gli 8 big da una parte e i 12 dall'altra? Sì, no, sostanzialmente si dice: diamo a Sky il digitale terrestre, anche se Sky, diciamo, poi deve acquisire i canali per fare la trasmissione lì, perché Sky, per battere Mediaset, ha presentato un'offerta da 420 milioni. Diamo a Mediaset invece quello sul satellite, anche se non ha adesso chiaramente la piattaforma, la tecnologia per trasmettere, perché comunque ha offerto 300 milioni e solo con queste due andiamo a 700 milioni. Quindi freghiamocene adesso della tecnologia, assegniamo in base, diciamo, a quello che è il massimo profitto, massimo, esattamente, certo. E poi se lo vedranno Sky e Mediaset come spartirsi, come scambiare il tutto. È chiaro che questa operazione è vitale per i club, ma è vitale anche per l'esistenza delle pay TV in Italia, perché per esempio una Mediaset con in pancia i diritti TV della Serie A avrebbe tutto un altro peso anche nelle trattative, per esempio in Spagna, e nel progetto di accorpare le pay TV in Spagna e in Italia. Lo stesso Murdoch ha annunciato qualche tempo fa il progetto di una mega fusione tra Sky Deutschland, Sky Italia e Biscabini Inghilterra, ed è chiaro che non avendo la Serie A, essendo i tre quarti degli abbonati per entrambi legati comunque al calcio, perderebbe molto del suo valore. Quindi si sta giocando sul calcio una partita che riguarda sì la sopravvivenza e la permanenza ad alto livello del calcio italiano, ma anche quello degli operatori TV e il mercato televisivo italiano. Vabbè, questo è abbastanza chiaro, così quanto la partita resti ingarbugliata. Grazie a Marco Bellinazzo. Meteo, pubblicità, poi la borsa e la vicenda tedesca. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti, mancano 24 minuti. No, non alla fine del programma, all'inizio della partita. Comunque, chi vi parla non è che poi è un uomo anche lui. Allora, meno 0,30% Milano, più 0,17% Francoforte, invariata Parigi, Londra invariata. I titoli, partiamo dai bancari oggi con la vicenda Monte dei Paschi. Nell'ultima settimana di aumento del capitale ha preso un'altra scoppola, meno 13,35%. Titolo è a 1,87 euro, male anche Unicredit meno 2,50, Banco Popolare meno 2,30, Buzzi Unice meno 2, Intesa San Paolo meno 1,80, Pop Milano meno 1,70%. Andrea Fontana, Radio Cori, sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Partiamo da Monte dei Paschi, poi Bipop Lula, Bipop, vai. Sì, Monte dei Paschi oggi una forte sbandata, è la settimana finale dell'aumento di capitale, è chiaro che è un titolo che si è molto apprezzato nel corso dell'aumento e lo ha fatto anche negli ultimi giorni, è chiaro che quindi una correzione sotto 2 euro ci sta nell'ambito della volatilità del naturale di un'azione sotto aumento di capitale così dilutivo, ricordiamo 5 miliardi di euro a fronte di una capitalizzazione iniziale inferiore ai 3 miliardi. Settore bancario però debole in maniera generalizzata, Unicredit ha perso il 2,5%, Banco Popolare ha perso il 2,3%, anche perché sembra andare per tempi lunghi la vendita della controllata che incorpora i crediti dubbi, crediti problematici, release, il CDA, c'era un CDA oggi, è probabile che i tempi si allunghino, credo che il mercato scommetteva su questa vendita, ma male anche altre banche come Intesa San Paolo, Popolare di Milano e Mediobanca hanno perso tutte tra l'1 e il 2% oggi. Sì, tutte, devo dire che questo poi penalizza Piazza Affari anche se di poco, meno 0,25% più di altre borse. Ancora per quello che riguarda i titoli, devo dire in recupero alcuni, tra cui Fiat più 1,60, Atlantia più 1,50. Su Atlante ci sono notizie comunque? Sì, il mercato ha accolto positivamente diciamo questo accordo con in Francia, accordo che riguarda un consorzio partecipato da Atlantia che si era aggiudicato l'incarico del governo francese per diciamo realizzare il sistema di pagamento, di pedaggio per i camion che avrebbero dovuto essere sottoposti a un'ecotassa, ecotassa che sta slittando, ma questo ha comportato e comporta un accordo con un rimborso per il consorzio partecipato da Atlantia, il mercato l'ha apprezzato con un più 1,5%. Dicevo, Telecom Italia anche in recupero dopo gli sbandamenti della scorsa settimana, no? Sì, su Telecom chiaramente questo riassetto in corso tra gli azionisti italiani che dovrebbero uscire da Telco, Telefonica che ha venduto il bond convertendo da circa 100 milioni la scorsa settimana mostrando chiari segnali di disimpegno, non era piaciuto al mercato, oggi c'è un po' di recupero, come recupero tu lo citavi, c'è stato da parte di Fiat, ha guadagnato l'1,6%, dopo praticamente 9 sedute consecutive di ribasso. Ancora chiudiamo con il lusso, bene Salvatore Ferragamo più 2,16%, bene anche Tod's più 1,35%, commentiamo anche l'esordio in borsa per Cerved. Sì, è stato un esordio. Partiamo dal lusso però. Sì, il lusso oggi si è mosso positivamente, ha mostrato buoni segnali di recupero dopo una settimana di debolezza, Ferragamo è stata la migliore, ha guadagnato il 2,1%, oltre a Tod's anche Yux ha guadagnato lo 0,5%, quindi complessivamente una giornata positiva per il settore LAX in borsa, non è andata così invece per l'esordiente, cioè Cerve della società di dati aziendali e di business che ha perso il 2% all'esordio in borsa, era collocata a 5,1 euro, ha chiuso a 5 euro pur limitando le perdite visto che la partenza era stata di meno 6%. Gli operatori segnalano che questo esordio un po' debole diciamo non lascia presagire diciamo troppo ottimismo per i prossimi per le prossime IPO importanti, tra cui la stessa Fincantieri, tra cui Fineco eccetera, ma sarà poi il mercato vedremo la verità, come andranno. Miglior titolo di oggi Class Editori più 12%, Saras più 7,5%, primi sui motori più 3,30%, peggior titolo Acque Potabili meno 5,80%, Immobiliare meno 4,92% e Gefran meno 5,54%. Grazie Andrea Fontana. Faccio notare che negli ultimi 10 minuti gli SMS, che di solito sono tantissimi, sono quasi scomparsi. Ci sarà un motivo, forse perché mancano 20 minuti all'inizio della partita, forse le persone stanno arrivando a casa. Faccio notare che insomma, o forse insomma, oggi la borsa non interessa, ma penso che non sia questo, sia proprio è impressionante, è come se si fossero congelati gli SMS. Ma non andiamo avanti con l'ultimo tema, che non è ultimo, ma è ultimo in ordine di scaletta, e mi riferisco a tutte le frenate, l'acqua sul fuoco buttato oggi in Germania sull'ipotesi di un patto di stabilità più intelligente, dall'altro però Renzi va avanti e fa capire che il semestre italiano sarà caratterizzato da maggiore flessibilità nel patto di stabilità e quindi nel rientro sul deficit in cambio di riforme. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, se qualcuno diciamo è ancora in macchina ce lo faccia sapere. Allora, flessibilità, c'eravamo un po' entusiasmati ieri per l'apertura di Angela Merkel, ribadita dal suo portavoce Steven Seibert. Oggi è arrivato Weidmann, il numero uno della Bundesbank, della banca centrale tedesca, a dire in un'intervista: ammorbidire il patto sarebbe fatale, accogliere le richieste di Parigi e di Roma vorrebbe dire creare scosse nell'area euro, come se le scosse, dicevamo in apertura, già non ci fossero state con le ultime elezioni. Dove vive Weidmann? Lo sa, è anche sposato con un'italiana, per cui conosce bene anche questi paesi. Comunque, anzi, chiede Weidmann che le regole di bilancio siano più vincolanti. Vabbè, non voglio fare altri commenti perché già oggi sono abbastanza agitato per la partita. Schäuble, il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, altro falco, ha detto: andremo avanti in modo coerente, potremmo essere solidali ma in cambio dietro determinate condizioni. Devo dire che il sottosegretario degli affari europei Sandro Gozzi ha detto: per noi valgono le parole della Merkel, il suo portavoce, di Schäuble ci interessa meno. E Renzi ha detto: attenzione, questo è il modo in cui l'Italia gestirà il semestre. Noi pensiamo che l'Europa non possa diventare un elenco di raccomandazioni e di problemi, e per questo insistiamo con grande forza nel fatto che l'Italia presenti un pacchetto di riforme che sia puntuale, specifico, legato a un disegno di insieme, e lo presenti nella sede europea come un pacchetto di riforme che sia in grado di abbracciare sostanzialmente l'arco di questa legislatura, chiedendo non in cambio, ma come naturale conseguenza, che vi sia il riconoscimento di quella flessibilità che sta dentro le regole costitutive dell'Unione Europea. Allora, grazie a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, Guido. Buonasera a voi. E grazie anche a Alberto Crali, che è germanista, insegna lingua tedesca alla facoltà, alla Cattolica di Milano, alla Facoltà di Scienze Politiche, ed è autore di un libro sulla Germania, sulla crisi europea e il ruolo della Germania, che abbiamo già citato altre volte, che si chiama Primi della classe. Allora, mi dica subito una cosa, Crali, buonasera anche a lei. Buonasera. Ma in Germania il tema viene dibattuto? Cioè, no, visto che... allora, la cosa che colpisce in questo momento qua è l'attenzione particolare dei giornali e della pubblica opinione italiana in generale a quello che si dice in Germania, mentre la stampa tedesca e i media tedeschi assolutamente non lo prendono in considerazione. Quindi c'è una sfasatura da questo punto di vista. Anche io stesso personalmente sono rimasto particolarmente colpito da questa differenza, ed è praticamente sembra che il paese Italia sia appeso alle labbra della signora Merkel per sentire cosa succede. Lei è rimasto sorpreso dalle dichiarazioni di oggi di Schäuble, ma soprattutto di Weidmann, del presidente della Bundesbank, che ha detto: no, anzi, deve essere ancora più vincolante, non bisogna fare nulla, sennò vi potrebbero essere scosse nell'area euro. Io ho detto come battuta: ma dove vive Weidmann? Perché le scosse le abbiamo viste fino adesso, non c'è mai stata un'Europa con un gradimento così basso da parte dei suoi cittadini come dopo questi 4 anni di rigore. Non c'è da essere stupiti di questo, perché è un gioco delle parti. Okay. Bisogna capire questo. Allora, c'è un'opinione pubblica in Germania che è fortemente contraria ai paesi del sud Europa, perché li ritiene, e questo ormai è stato detto in tutti questi anni qua, inaffidabili. Beh, in parte ha ragione, perché non è che siamo stati proprio un esempio di contenimento della spesa pubblica. Per cui... Su questo lei con me trova una porta aperta, però è un dato di fatto, e politicamente chi gestisce la Germania deve tenerne conto. Ora, questo è l'aspetto, per così dire, di politica interna che ha, che la signora Merkel ha da gestire. E dall'altra parte però ovviamente c'è un'Europa che non può essere lasciata andare. Allora, il gioco è questo, si tratta di fare delle aperture che poi sono sostanziali verso i temi europei e al tempo stesso avere qualcuno che rassicuri la pubblica opinione. Una fa il poliziotto buono, la Merkel, che dice beh, anche perché ha preso paura dopo quello che è successo in Francia e in Gran Bretagna, e dice beh, il patto di stabilità ha già al suo interno delle regole più di maggiore flessibilità in base anche al ciclo economico, basta che poi i paesi facciano i compiti a casa. E l'altro fa il poliziotto cattivo, dice no, anzi bisogna essere ancora più duri. Guido Gentili, dopo le informazioni sul traffico, vorrei capire da te invece se per Renzi la partita europea sia più o meno difficile della partita sul Senato e sulla pubblica amministrazione, ma anche se, diciamo, visto che parliamo di partite, se sia quella che può dare maggiori risultati. Grazie per chi scrive gli sms di solidarietà contro la solitudine di Focus Economia. Non esageriamo, insomma, dai. Tre persone in regia ce le ho, due ospiti in collegamento, facciamo già adunata sediziosa. minuti. Allora, Guido Gentili, mettiamola così, nel tridente che ha, visto che parliamo di calcio fra 10 minuti, che ha in mano Renzi, e cioè riforma della pubblica amministrazione, riforma del Senato, della legge elettorale e diverse interpretazioni o interpretazioni più morbide del patto di stabilità, qual è quella che può portare, quella più difficile, ma che può portare anche maggiori risultati in termini di consenso interno? Quella più difficile mi sembra quella della pubblica amministrazione, perché è molto lunga, ma insomma vorrei sentire la tua opinione. Sì, quella più difficile sicuramente è quella della pubblica amministrazione, perché sappiamo una delle riforme tra virgolette impossibili, diciamo, speriamo in Italia, ecco, e quindi è quella più complessa e più difficile anche politicamente da mandare in porto. Però anche la partita europea è una partita molto molto difficile, perché come avete ben detto prima, c'è un po' di gioco delle parti in Germania su questo, in particolare tra il governo, la Merkel e la banca centrale tedesca, e Draghi lo sa bene della posizione della Bundesbank, diciamo, ogni volta che si è confrontato è sempre stata una posizione prima di, diciamo, di chiusura e poi piano piano lentamente poi di apertura. Però detto questo, forse si è sottovalutato, ad esempio nei giorni scorsi è venuto a Roma in una visita ufficiale il ministro degli esteri tedesco Rotte, che ha avuto degli incontri tra cui quelli col sottosegretario Gozzi, che si occupa appunto alla delega, diciamo, per i rapporti con l'Europa, e ovviamente lì è emerso un confronto piuttosto serio, nel senso che poi ha detto vanno benissimo tutte le riforme che avete annunciato, però noi poi vogliamo vedere nel dettaglio le misure che vengono prese, e quindi questo, diciamo, è un po' lo scoglio che dovrà superare Renzi, perché va bene dire che c'è modo e modo di rispettare le regole in Europa e che quindi ci sono, noi non chiederemo di violare la regola del 3% e ci sono gli spazi per modificare il quadro, però questi elementi di flessibilità, che pure sono previsti da quella complessissima governance europea con cui dobbiamo confrontarci, poi alla fine c'è un giudizio politico discrezionale, noi lo sappiamo bene, no? Al di là dello 01, 02, 03, ma poi sul giudizio politico c'è un giudizio politico su cui l'Italia gioca le sue carte nel suo semestre, quindi la credibilità del Paese in questo momento è forte anche dopo il risultato politico che ha avuto Renzi, però insomma la partita è ancora lunga e dovrà presentare una legge di stabilità che sia coerente con un quadro comunque di controllo di finanza pubblica e coerente con un quadro delle riforme che lui ha annunciato. Sì, va detto però, tu in qualche modo lo facevi capire, che se portasse a casa però un ammorbidimento, una lettura, cioè un patto di stabilità che utilizzi anche i meccanismi di maggior flessibilità che ha già al suo interno, questo è vero, cioè che sia meno stupido, il successo sarebbe sia verso l'opinione pubblica italiana ma anche verso l'opinione pubblica europea, nel senso che in questo momento è innegabile che Renzi sia il leader con la Merkel, ma diciamo più forte come consenso interno, per cui abbiamo visto l'accoglienza in Francia, i francesi ricredono in questo asse perché vogliono spingere sulla Germania, e quindi vi sarebbe anche una rendita non solo verso l'opinione pubblica dell'Italia ma anche verso l'opinione pubblica europea. Mi scusi professor Crali, quindi lei è convinto che al di là del gioco delle parti in cui Weidmann deve fare il cattivo come Schäuble e la Merkel la buona, la Germania ascolti, in tutte queste valutazioni non mi faccia una domanda, però lei si è convinto che poi la Germania accetterà a determinate condizioni, chiaro, non calandosi le braghe, ma una lettura più flessibile del patto? Ma su questo non c'è dubbio, il motivo è questo, e non è per motivi italocentrici o renzocentrici. Il motivo è che la Germania ha come punto, come stelle polari nel suo comportamento europeo, due nazioni fondamentalmente, una la Francia sicuramente e l'altra l'Inghilterra. Quindi sono questi i punti. La Francia, il rapporto con la Francia ovviamente adesso è in crisi, e le strutture, anche il concetto con cui la stessa Europa è stata portata avanti in tutti questi decenni, che era appunto il modello francese, è venuto meno, perché è sempre più necessaria la presenza di una sussidiarietà e di una decentralizzazione. E di questi, allora, l'elemento che adesso deve essere valutato dalla signora Merkel è la posizione che deve assumere nei confronti di Cameron e quindi dell'Inghilterra e della Gran Bretagna. Quindi il concetto è questo: a Cameron probabilmente Cameron dovrà mandare il rospo di Juncker, perché anche se lui è contrario ormai su questo, tutta l'Europa praticamente è unanime, però le concessioni che poi verranno date a Cameron saranno più di sostanza relative al programma complessivo. Il programma complessivo prevede appunto più sviluppo, ma prevede soprattutto anche una maggiore concentrazione sui valori della sussidiarietà, sui valori della decentralizzazione, quindi regionalizzazione, e quindi sul valore della competizione intesa come concorrenza. Sono questi gli elementi con i quali cercherà di convincere Cameron e quindi conseguentemente di fare anche il gioco di paesi come l'Italia. Ecco, questo è il quadro. Quindi io sarei molto, per così dire, noto in Italia, sì, questa tendenza qua a rendere tutto interpersonale e a spostare i vari centri dell'Europa. No, l'Italia, la posizione dell'Italia adesso attualmente è periferica. Il fatto che Renzi abbia vinto le elezioni, sicuramente di questo tutti sono contenti, ma da questo a dire che adesso la posizione italiana necessariamente in Europa diventa la posizione di chi parla allo stesso altezza degli occhi, come si dice in Germania, con i tedeschi, questa qui no. Allora, Guido Gentili, visto che base che ti ho messo, sarà, è più dura per l'Italia tra 3 minuti, 4 minuti o per Renzi portare a casa a questo punto il doppio passaggio Bruxelles, quindi patto di stabilità più flessibile e riforma del Senato ai 30 secondi, beh, poi ci salutiamo. Vai, azzardo, è più dura per Renzi. È più dura per Renzi. Io mi auguro che tu abbia ragione, non per il premier, ma che sia più facile per l'Italia. Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno scritto che non devo sentirmi solo. Adesso c'è il GR24, poi restiamo in diretta però con Carlo Genta, Giuseppe Cruciani, Pardo, Ricci dal Brasile, beati loro, e chiaramente Forza Azzurri. Radio 24, la passione si sente. Fincantieri vi ha presentato Focus Economia.